avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Avrete notato, e premetto, questa non è una trasmissione con un taglio politico, ma perché? Perché non ho gli strumenti culturali per farlo, se no magari mi piacerebbe pure. Avete notato che all'indomani del risultato delle elezioni amministrative in Italia è emerso come luogo di contrasto, più acceso luogo di contrasto politico, il problema della spazzatura, soprattutto la spazzatura a Napoli, che è qualcosa che ormai è antico come il nostro paese. Io questa mattina vorrei riflettere proprio su una sorta di possibilità di tracciare una storia del pattume, o perlomeno rendetevi conto un attimo quanto ogni essere umano, quanto voi nella vostra pulizia, nel vostro nitore, nel vostro essere perfetti ogni mattina quando uscite di casa, siete, siamo dei fantastici fabbricatori di pattume. Ma viviamo in una civilizzazione molto avanzata, perlomeno in contesti urbani in cui il problema è meno evidente rispetto a quello di Napoli, in cui il nostro essere produttori di schifezza, di putridume, viene incanalato attraverso alcuni compensatori, alcuni occultatori. Abbiamo degli impianti fognari, abbiamo delle reti idriche, abbiamo dei perfetti gabinetti funzionanti, a meno che non si scassi il sistema di scarico, come accade spesso molte volte. Abbiamo nel più avanzato e politicamente corretto costume della possibilità di differenziare i consumi, i rifiuti che noi produciamo, i contenitori del cibo che mangiamo, le scorie umide del cibo che mangiamo, tutta un'altra serie di oggetti che entrano a casa nostra e sono le confezioni degli oggetti di cui fruiamo, le carte che incartano i libri che noi leggiamo, le buste che imbustano gli oggetti che ordinano la nostra casa, e poi tutta una serie di pulviscolo di rifiuto quotidiano che noi immagazziniamo, mettiamo nei sacchetti dei nostri potenti aspirapolvere, mettiamo a nostra volta in dei sacchetti dell'immondezza, mettiamo dentro dei contenitori e qualcuno fa sparire questa roba. Poi nasce il problema, naturalmente, perché quando affidiamo all'istituzione, perché il problema dello smaltimento, la nostra schifezza è diviso in due: da una parte la nostra capacità di un corretto e civile uso dei vari contenitori di schifezza, da quelle organiche che produce il nostro organismo. Noi viviamo producendo schifezza, se non producessimo schifezza saremmo dei cadaveri, ma anche da cadaveri produciamo schifezza, quindi anche lo smaltimento di noi come rifiuto estremo è un problema che qualcuno si deve porre. Beh, la civiltà e l'umanità non sempre si è posta al problema nei termini in cui ce li poniamo noi. Quindi questa mattina noi vogliamo analizzare quella che è la radiografia dell'immondizia, perché visto che l'immondizia è un problema così importante, visto che sull'immondizia ci si gioca la partita politica, ci si gioca il consenso, ci si gioca la faccia, ci si gioca l'aspetto, il punto di vista, visto che l'eliminazione dell'immondizia fa sì che noi possiamo socializzare, è il punto fondamentale della nostra civilizzazione, proprio il fatto che noi riusciamo a smaltire le nostre immondizie, sia quelle corporee sia quelle che noi produciamo per sopravvivere, per vivere, per avere fonti di energia. Questa mattina aiutatemi chiamando l'800240024 nel porvi il problema su come nasce, su come viene smaltita, su quali sono le strade, su come noi ci riconosciamo attraverso la nostra immondizia. Il fugace regno degli odori. Al tempo di cui andiamo narrando, nelle città regnava un puzzo a stento concepibile per noi moderni uomini e donne. Naturalmente il fetore più insopportabile era a Parigi, perché Parigi era la città più grande d'Europa e il mercato del pesce era il luogo dove il puzzo era più nauseabondo che in qualunque altro posto. Ecco, vado a prendere un'altra cassetta. Fu proprio lì, nel luogo più putrido dell'intero regno, che Jean-Baptiste Grenouille vide la luce il 17 luglio 1738. Uno dei miei testi di formazione più importanti, che è Profumo di Patrick Susskind, la nascita di Grenouille, il mostro assoluto della esaltazione olfattiva, della ricerca della quintessenza del profumo, strumento di fascinazione estrema, nasce nel massimo putridume. E nulla rende più l'idea, quanto l'incipit di questo romanzo, di ciò che fosse una città putrefatta agli inizi del 1700. Oggi ho in studio un esperto, è un giornalista e divulgatore scientifico, lavora con Piero Angela, è autore di un interessantissimo libro, Autoritratto dell'immondizia, come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, edizioni Boringhieri. Lorenzo Pinna, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti in ascolto. Tu usi una definizione fantastica, che è quella della città pestilenziale. Noi cominciamo a renderci conto che i nostri rifiuti prevaricano la nostra capacità di smaltirli quando nasce la città pestilenziale. Oggi all'onore della cronaca una città pestilenziale come quella di Napoli, su cui poi si articola naturalmente un dibattito, un contrasto, un rinfacciare continuo. Quando nasce la città pestilenziale? Beh, diciamo, nel mio libro io faccio un'ipotesi, come si suol dire, forte, nel senso che non ammette molte eccezioni, cioè che la città pestilenziale nasce con la stessa città alla fine del Neolitico, cioè quando dai cacciatori raccoglitori nomadi, che quindi certo si fermavano qualche però giorno, seminavano lungo esatto, il loro tragitto, seminavano e non c'avevano tanti problemi, avevano altri problemi ma non questo, come nascono i primi villaggi sedentari, l'uomo comincia a convivere con i propri rifiuti propri e degli animali che vivevano insieme a lui. Quindi con lo stoccaggio delle derrate alimentari inizia il problema di smaltire poi i rifiuti. Esatto, e naturalmente i rifiuti e le derrate alimentari, come giustamente detto, attraggono, sono nicchie ecologiche, come si suol dire, per una miriade di parassiti, di animali, che porteranno poi tantissime malattie, tantissime epidemie. Quindi la città immediatamente sorge come città pestilenziale. Allora dice, ma qual è la città? Sono tutte le città del passato. Nel mio libro, appunto, l'ipotesi forte, che non ammette tante eccezioni, è che dalla rivoluzione del Neolitico, dai primi villaggi, fino al 1850, cioè fino alla rivoluzione industriale e alla nascita del grande capitalismo industriale in Inghilterra, poi in Europa e poi negli Stati Uniti, le città sono pestilenziali. E questa è una definizione precisa. Pestilenziale vuol dire che le nascite sono superate dalle morti, cioè nel medio periodo queste città perdevano abitanti proprio per una situazione igienica disastrosa, anche senza epidemie gravissime, catastrofiche. E quindi le città pestilenziali del passato avevano bisogno di due surplus: uno, alimentare, per essere rifornite di cibo, certo, dalle campagne; due, di essere riforniti di persone. Le persone producono spazzatura, noi siamo dei grandi produttori di spazzatura. Teniamoci cara questa tua metafora della città pestilenziale, che ormai è un luogo dell'immaginario, perché è facilmente definibile oggi. Napoli è la città pestilenziale per eccellenza, di cui tutti si parla, perlomeno nelle nostre latitudini, ma chi viaggia, che ha uno spettro più ampio, c'è una vastissima scelta di città pestilenziali. Basta andare negli slum di Zoom di Nairobi per vedere la gente vive nella spazzatura. Esistono alla periferia di città del Messico, ci sono intere popolazioni che vivono dentro la spazzatura come se fosse un habitat naturale, come pidocchi dentro una città appunto pestilenziale, che portano la peste. Loro ci vivono, dalla spazzatura traggono vita. Quali sono le fonti di produzione maggiori? Una è quella, sono i nostri rifiuti organici. Sì, diciamo, qui bisogna distinguere due fasi. La fase, diciamo, del passato erano i rifiuti organici, essenzialmente, perché le civiltà del passato, fino alla rivoluzione industriale, di nuovo, che io vedo come il grande poi punto di svolta, erano società povere e quindi erano società che riciclavano tutto. Anche l'osso, per dire, del bue appena macellato venne usato magari per fare i bottoni, le fibbie, le pedine per qualche gioco di società, eccetera. Quindi, diciamo, i rifiuti, quelli che noi richiamiamo i rifiuti solidi, quelli urbani, quelli adesso che stanno mettendo in crisi Napoli, non ce n'erano tantissimi. Il problema vero erano i rifiuti organici, i liquami, le fogne, che non c'erano. Dal momento si rimane stanziali, esatto, c'è un problema quotidiano per ogni essere umano, esatto, come smaltire, esatto, il rifiuto del suo processo, esatto, biologico. Come giustamente hai detto, è un segno della vita. Non so, faccio per esempio il Colosseo, che è una rovina, non produce rifiuti. Un edificio, che ne so, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, non c'è nulla di più profumato che una rovina. Esatto. Girare in un sito archeologico, tu pensi, qua ci sono stati morti, città, è un posto bellissimo, ci nascono le margherite e ci saltellano le cicale, non è un posto pestilenziale. Le nostre città smetteranno di essere pestilenziali quando saremo come nel pianeta delle scimmie, saranno passate su di noi civiltà e civiltà, capito? Sì, diciamo, quindi diciamo, i rifiuti fanno parte della vita, bisogna imparare a gestirli, diciamo, imparare a e quando ci siamo posti questo problema di gestire sia noi come rifiuto, perché a un certo punto quando nella città pestilenziale le persone cominciano a morire vanno smaltite in qualche maniera, quindi immaginiamo rifiuti organici, il cibo che viene stoccato e crea anche se minimo agli inizi anche materiale comunque di scarto, e poi le persone che muoiono anche loro, diventiamo anche noi immondizia. Certo, questo è esattamente quello che hai detto, cioè ci sono tutti i problemi dei liquami, che naturalmente non ci sono reti fognarie, quindi finiscono alle strade, nelle canalette lungo le strade, dove formano un grandissimo protagonista della città pestilenziale, che è la pantegana. No, il fango. Il fango che poi, siccome queste strade non erano lastricate, lasciavano percolare tutta questa porcheria e si infilava nelle falde acquifere da cui poi prendevano l'acqua dai pozzi artesiani. Cioè c'era questa commistione di sangue venoso e arterioso che è proprio un po' il marchio della città pestilenziale. Cioè c'è questa commistione tremenda. E diciamo, naturalmente il concentrarsi delle città a mettere migliaia, decine di migliaia di persone insieme, oppure addirittura milioni, come è successo a Roma, c'aveva un problema dei cimiteri. I cimiteri dove appunto come venivano gestiti, come venivano fatte queste cose, e lì si riprova, adesso non voglio entrare in situazioni particolari raccapriccianti, ma anche lì si riproponeva che se non erano fatti in maniera da non permettere il percolato, diciamolo chiaramente, e anche lì si era uno sgocciolamento continuo di rifiuto organico. Cioè era una situazione orrenda. L'altra cosa che tu, infatti, hai fatto molto bene a mettere questa cosa di Suskin, era il puzzo. Cioè questa, la città pestilenziale e tutte le città del passato puzzavano in una maniera tremenda. Non ecco, è solo secondo Parigi te, diciamo, in una ricostruzione, fino a quando le città hanno avuto questo fetore insopportabile? Perché tutte queste fattispecie messe assieme facevano un inferno olfattivo, un'esplosione proprio. Ma guarda, allora, adesso con però ci lamentiamo, c'è cattivo odore di smog, ma rendiamoci conto che poteva essere... No, era una cosa terrificante. La gente viaggiava, infatti, con una mascherine... La teoria per spiegare le epidemie, cioè la mortalità catastrofica, era la teoria dei miasmi, cioè il puzzo era talmente forte, e i nostri antenati, nonostante fossero abituati, perché poi ci vivevano, però doveva essere così tremendo che venne elaborata questa teoria che le epidemie erano causate dai miasmi, cioè dal tanfo che in un certo senso formava delle particelle appiccicose, non si sapeva e nessuno saprà mai che cosa. Famoso sono. Unto della peste di Milano, esatto. L'untore portava l'unto perché esatto. E che si appiccicavano e provocavano le epidemie, quindi l'estate con la recrudescenza del tanfo e del puzzo c'era, cioè, il terrore che arrivasse la peste, diciamo, cioè l'epidemia su scala massiccia era quindi il puzzo era un protagonista che adesso noi non ci immaginiamo più, e appunto era quello che io definisco il frastuono olfattivo. Noi siamo passati dall'altra parte al silenzio olfattivo, quando che adesso è rumore dal punto di vista dell'udito che ci sembra l'inquinamento più forte, perché sentiamo meno gli orecchi. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Vincenzo, buongiorno. Io chiamo da Napoli. Bravo. Diciamo così, siamo sempre in emergenza. Secondo me, almeno questa è la mia opinione, io credo che l'emergenza nostra sia nata dal punto di vista demografico. Siamo tanti e nel momento in cui siamo cresciuti col tempo non abbiamo adeguato la rete fognaria. Mica soltanto a Napoli siete tanti però, eh? No, non, diciamo c'è anche parte di malcostume, però noi siamo tanti e raccolti in un territorio abbastanza piccolo, cioè se vediamo anche i dati, forse in Campania, soprattutto nella provincia di Napoli, diciamo la percentuale di persone per metro quadrato è abbastanza alta. Ma non c'è nulla a che fare proprio con il costume ormai visceralmente acquisito, incorporato in certe aree geografiche, per cui il problema sia così presente? Perché poi Lorenzo Pinna ha studiato profondamente anche il problema dal punto di vista storico e antropologico, ci dirà anche dei motivi tecnici, pratici, per cui esiste un problema così forte a Napoli. Anzi, diciamolo subito, Pin. No, il famoso problema che ho letto mi ha colpito molto. Io volevo fare solo un passo indietro. Cioè, in realtà Napoli non è una città così, storicamente, non è stata una città così popolosa. Era la più popolosa città in Italia perché nel 1800 aveva 500.000 abitanti, ma era cresciuta di 100.000 abitanti nel corso dal 1800 al 1900, mentre Londra era passata da 900.000 a 6.500.000, Parigi era passata da 600.000 a 2.600.000, cioè non c'è confronto, cioè non c'è proprio assolutamente confronto. Quello che diceva l'ascoltatore era giusto: Napoli è un po', diciamo, ha un territorio che la chiude in fondo verso il mare, una specie di anfiteatro che ha come platea il mare, che è la baia, e quindi questo effettivamente non ha... Il tuo libro analizzi molto bene il problema di Napoli, cioè proprio storicamente un problema alla base proprio nella fattispecie della costruzione degli impianti fognari della città. Sì, diciamo, è una storia che io ho letto attraverso un documento che non si conosce più tanto, che si chiama il rapporto, la relazione della commissione Saredo, che indagò appunto sul risanamento di Napoli di fine Ottocento, perché questo risanamento non era, come dire, dopo tanti anni non era concluso. Ma prima o dopo del colera? Dopo. Cioè, del colera del 1884 fu una specie di dramma nazionale in cui il re Umberto I, in questi primi giorni di settembre del 1884, insieme ad Agostino De Pretis, che era il primo ministro, fece questa visita nei bassi, nei luoghi più tremendi della città pestilenziale, rischiando personalmente, poi, perché nel 1884 si era appena scoperto il bacillo del colera, quindi non si sapeva ancora bene come funzionava in realtà il contagio, e rimasero completamente sconvolti e in pochi mesi fecero questa legge per il risanamento di Napoli. E questo risanamento incontrò tantissime difficoltà, tanto che agli inizi del 1900, cioè 16 anni dopo, ancora non era completato. Ancora se ne parla. I bassi ancora non erano stati bonificati, questi quartieri che erano Mercato, Pendino, Vicaria, Porto, che erano la città bassa. Le fogne erano state costruite, ma solo nella città alta, dove servivano meno. Al famoso mattone che si sbriciola. E c'erano stati casi di... io lì lo faccio quella cosa perché dà un po' l'idea. Perché è attualissimo. Oggi si parla del cemento armato che si sbriciola a L'Aquila terremotata, e quindi... Sì, ma la cosa tremenda è che questo Martino lì era l'ingegnere capo che dirigeva i lavori del risanamento e approfittava della sua posizione per vendere alle ditte che costruivano i mattoni che produceva una sua ditta, diciamo, a basso costo e a bassa qualità. Quindi si sbriciolavano. Quindi. E la cosa terribile in questa, che io lo cito, perché io faccio il confronto con Joseph Bazalgette, che era l'ingegnere capo del Metropolitan Board of Works, che aveva invece ristrutturato Londra. E che probabilmente ancora funziona con l'impianto. È ancora la spina dorsale di Londra questa. E allora Bazalgette praticamente faceva dei controlli a campione su tutte le partite di cemento che arrivavano, quindi aveva messo in piedi un laboratorio chimico per controllare, e se questo non corrispondeva alle specifiche che erano state pubblicate nel bando, veniva rifiutato e rispedito indietro. Allora, ecco, ci sono due modi completamente diversi. Andiamo oltre, allora, rispetto al tuo punto di vista, che io ben conosco. Il vero difetto non è mai stato affrontato in maniera razionale e industriale, spietatamente industriale. Esatto. Sempre stato un po' di assistenzialismo, un po' di paternalismo, un po' di desiderio di mantenere sempre l'idea che in fondo nella putrefazione abbiamo il segno costante, la caducità della nostra esistenza, di esseri limitati. Insomma, nessuno ha mai preso il toro per le corna, come è stato fatto nello stesso tempo e nello stesso giro di un paese abbastanza vicino a noi, non parliamo di un altro pianeta. Diciamo, la mia ipotesi, sono tutte ipotesi ovviamente discutibilissime, è che siamo qui, se qualcuno le vuole discutere, siamo qua. La mia ipotesi è che in Italia ci sia stato, specialmente in certe regioni, non sia penetrata la cultura, per dirla un pochino grossa, del capitalismo industriale, cioè la razionalità della gestione dei grandi lavori, delle grandi opere, basata sulla scienza, la tecnologia, la finanza, secondo le regole del capitalismo. Allora, io volevo fare un piccolo... Cioè, le regole in cui do valore al denaro che investo, perché è il mio, però, e quindi c'ho voglio anche capire il risultato, come. C'è anche un risultato, voglio dire, voglio dire, Basil Gett, questo ingegnere che è un po' uno degli eroi, l'altro è Haussmann della... Senti, ci fermiamo, non ti voglio interrompere. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Avete mai pensato, donne che alla casa dedicate tutta la vostra vita, uomini che in casa non trascorrete che l'indispensabile, dove finisca tutto ciò che la vita domestica rifiuta e che a voi sembra diventato inutile? Ogni città ha i suoi sistemi di raccolta. A Milano, per esempio, ogni casa dispone di appositi recipienti. Proviamo a seguirne uno nel suo viaggio quotidiano. I recipienti discendono dal treno così come vi sono saliti, meccanicamente, e meccanicamente vengono vuotati. Questo è un piccolissimo stralcio che abbiamo trovato su YouTube di un filmato dell'Istituto Luce che ha mandato Report, in cui spiega con l'euforia del fantastico la raccolta dell'immondizia nel 1939. Ho in studio Lorenzo Pinna, che è giornalista, divulgatore scientifico, autore di Autoritratto dell'immondizia, come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, edizioni Boringhieri. E con lui stiamo ragionando proprio di come è stata la civiltà moderna condizionata dai rifiuti, ponendo un parallelismo di un affrontare coevo dello stesso problema fra Londra e Napoli. Riprendiamo il punto dove avevamo lasciato. A Napoli l'incaricato dello Stato di fare questo vende i suoi mattoni tarocchi che ci fanno le fogne ma crollano. A Londra fanno un sistema che ancora è in piedi. In piedi, e quindi aveva messo insieme tutta una serie di verifiche basate su dei laboratori chimici che controllavano la qualità del cemento, e ogni partita che arrivava veniva testata, veniva analizzata, e se non rispondeva a certi criteri, che erano quelli poi dell'appalto, del bando pubblico, veniva respinta. A Napoli invece lo stesso capo, l'ingegner Bartinoli, lo stesso ingegnere capo, cioè l'equivalente del Joseph Basil Gett di Londra, era quello che costringeva le ditte a comprare i mattoni che lui stesso produceva in una fabbrica. Gli sbricioloni li chiamavano, sì, quella cosa del genere. Gli sbricioloni, che poi appunto si sbriciolavano sotto una certa pressione e facevano crollare non solo le fogne, ma facevano crollare anche gli edifici. No, il paradosso, tu mi dicevi prima durante la pausa, è che Karl Marx indica come il modello più deleterio e più del capitalismo cruciale di capitalismo a battere, quella Londra che faceva con le fogne. La Londra di Basil Gett, a me questo un po' mi ha stupito, cioè mi ha stupito perché era una Londra che in definitiva poi è riuscita a bonificare e a sconfiggere la città pestilenziale che aveva imperversato per migliaia di anni, e quindi insomma ed ha costituito poi il modello, perché non bisogna dimenticare che Basil Gett e Haussmann, cioè Londra e Parigi, poi hanno costituito il modello con cui poi tutte le altre città, Vienna ma anche Roma, Milano, cioè, quindi per assurdo non è vero che è insolubile, perché io sento amici napoletani, cioè, ma il problema della spazzatura Napoli, alza il braccio, c'è sempre stato e sempre ci sarà, ma no, non è vero, razionalmente esiste un sistema razionale per eliminare una città in fondo piccola il problema della spazzatura. Subito, dal punto di vista tecnico, cioè se uno prende una città di 1,5 milioni di abitanti che produce adesso non so, tot migliaia di spazzatura urbana, qui poi stiamo parlando di rifiuti urbani, tecnicamente non è difficile, è un'equazione conosciuta, diciamo. Sì, ci sono città che devono risolvere problemi molto più giganteschi, quindi non è un problema particolarmente visto tecnicamente, tecnologicamente non è un problema irrisolvibile, è un problema relativamente semplice. Allora il problema dov'è? Infatti io nel libro, alla conclusione di quest'anno, dico il problema non sono i rifiuti, è la fiducia, è un problema mentale, è un problema diciamo culturale, e quindi è molto più difficile da risolvere di un problema tecnico, per cui in realtà quando vediamo la storia del commissariato all'emergenza, il famoso commissariato all'emergenza rifiuti, che poi il Parlamento e la Corte dei Conti alla fine, dopo anni e anni che ha tentato di risolvere il problema e non ci è riuscito, dicono il problema principale che ha ostacolato la risoluzione è lo stesso commissario, perché il commissariato pensava solo alla sua sopravvivenza, pensava solo in termini chiari al suo potere, al suo consenso elettorale. Avere giustificazione di esistere. Esatto. Allora, diciamo, è questo che... Però molto interessante, allora, questa evoluzione problema... della città pestilenziale. Nasce quando nasce la città e gli uomini smettono di andare in giro e si fermano e creano la città pestilenziale, anche se era soltanto una capanna o un ammasso di tugure all'inizio, poi la chiamiamo città pestilenziale, il luogo in cui gli agglomerati umani cominciano a vivere e convivere assieme ai loro rifiuti. Prima camminavano, se li perdevano per strada, e il mondo era vasto e anche abbastanza desolato. La città pestilenziale arriva alla sua apoteosi, abbiamo detto, all'inizio del Settecento, in cui non lo sbaglio, forse nell'Ottocento. Ottocento ancora peggio. C'è una cosa interessantissima, cioè che la tecnologia all'inizio della rivoluzione industriale. All'inizio, prego, vai, non ti preoccupare. All'inizio la rivoluzione industriale non solo migliora, ma peggiora la situazione. Perché aumenta il livello dei rifiuti. No, perché inventa per esempio il VC, ma il VC scarica nei vecchi pozzi neri, perché non c'erano ancora state. Questa è una cosa interessante, non ho dimenticato, quindi, l'invenzione del gabinetto e del sifone, quella serpentina in cui l'acqua permette, fa da tappa, non fa risalire la puzza, è una grande invenzione, ma è antichissima però. Le prime si pensa che fossero addirittura nel Palazzo di Cnosso, c'è una tratta. Cioè, Cnosso c'era il sifone. Sembra. A Roma non c'erano, erano le foriche, erano tubo dritto. A contatto però diretto. C'era molta acqua, perché diceva, adesso poi ci sarebbe aprire un altro piccolo capitolo sugli antichi romani, ma adesso saltiamo. E quindi diciamo questa invenzione per l'igiene privata, che era vanno pari passo, l'acquedotto va pari passo con la fognatura, sì, perché l'acqua porta via il liquame, esatto. Quindi il fatto di avere più acqua, poter, però non avevano costruito delle fogne adeguate, e quindi crea quella che è un miglioramento dell'igiene personale e privata, crea una crisi della sanità pubblica. L'impatto velocizzato con la deiezione umana, con la vecchia struttura fognaria, è come un siluro contro un muro di cartapesta. Allora, che succede? Che a Londra, invece di allontanare queste fogne, questi pozzi neri, li fanno, mandano nel Tamigi, proprio in mezzo alla città. E che succede? Poi il Tamigi è anche, diciamo, un movimento di andirivieni delle acque a causa della marea, perché si alza e si abbassa, e quindi questi liquami continuavano ad andare avanti e indietro con le maree, non riuscivano nemmeno tanto in fretta a scaricarsi nel mare. Peggio ancora, con i tubi dei primi acquedotti, tubi di ghisa, un prodotto della rivoluzione industriale, questi aspiravano l'acqua, ma era un'acqua dove ritornava il riflusso di marea, quindi un'acqua dove ritornava il liquame, cioè di nuovo la commistione che abbiamo detto prima tra sangue arterioso e sangue venoso, che è il simbolo della città pestilenziale, ma moltiplicata dalla tecnologia. E loro non se ne rendevano conto, perché erano in piena teoria miasmatica, e quindi pensavano che fosse la puzza a creare l'epidemia, non il batterio. Ci fu una bellissima, adesso è raccontata nel libro, una bellissima indagine di un medico inglese, Joe Snow, che proprio come un detective scoprì che era praticamente l'acqua sporca, l'acqua inquinata, a dare le malattie. Perché lui praticamente rapidissimamente, che può essere anche trasparente, cristallina, siccome c'erano due società che servivano lo stesso quartiere, una prendeva l'acqua molto a monte e una la prendeva in mezzo alla città, lui vide che i morti di colera erano di quella che prendeva l'acqua in mezzo al fiume in città, e quindi riuscì a dimostrare che il colera passava, il veleno colerico, e colera, diciamo, è l'epidemia moderna del 1800, passava attraverso l'acqua e non era l'odoraccio che lo faceva. Sentiamo alcuni ascoltatori, stanno attendendo. Roberto. Pronto? Eccolo. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Senta, abbiamo sentito un po' la storia della spazzatura, gli uomini, eccetera, eccetera. Noi ne produciamo tantissima. Quello che volevo mettere in risalto io era che la raccolta differenziata, che è una cosa necessaria assolutamente, su questo non ci piove, comunque è uno sport per ricchi, mi spiego meglio, per raccogliere in maniera differenziata la spazzatura noi abbiamo bisogno di diversi contenitori. A questo punto, siccome la maggior parte delle nostre case sono piccole, abbiamo una serie di difficoltà, perché abbiamo bisogno della busta della plastica, il contenitore del metallo, il contenitore del vetro. Noi abbiamo delle case piccolissime. Beh, le cose grosse sono plastica, vetro e rifiuti molli. Si fa più viaggio avanti e indietro col bidone della spazzatura su uno poco spazio, onestamente non mi sembra che è per ricchi. No, noi abbiamo i contenitori dentro casa, sì. Noi non abbiamo i contenitori fuori dove buttare immediatamente la spazzatura prodotta. Mi spiego meglio. Non avete un cassonetto fuori di casa o vicino al portone, no, di casa? No, passano dei camioncini. E ma voi dove posate i vostri camioncini? Dove abita lei innanzitutto? Io abito a Pescara. E a Pescara non esistono i cassonetti? Ci sono in alcune zone i cassonetti, in altre zone invece si fa la raccolta differenziata attraverso questi contenitori che si espongono a seconda dei giorni fuori sulla strada. Ma quindi deve tenersi in casa il contenitore tutta la settimana? Certo, il giovedì. Diciamo, quello è uno dei problemi. Ecco, Pinna. Sì, della differenziata porta a porta. Probabilmente sta parlando, certo, di differenziata porta a porta, dove appunto il contenitore, il sacchetto, eccetera, viene raccolto ogni 8 giorni. È chiaro che se uno si deve tenere in casa l'organico qualche giorno è fastidioso, diciamo. Ma a parte questi problemi, effettivamente possono esserci di locali ristretti dove. Però diciamo, come dire, forse andrebbero studiate delle soluzioni, ecco, diciamo, ecco, non lo vedo come un problema irrisolvibile. Andiamo avanti, Francesco. Salve. Eccolo. Allora, io sono un operatore ecologico e attualmente sono su strada a lavorare. Ah, beh, fa piacere. Si è sentito chiamato in causa? Sì, assolutamente, perché sovente ho la possibilità. Lei affronta la città pestilenziale ogni giorno, quindi. Sì, io la vivo proprio sulla mia pelle. E devo dire che forse uno dei lati più interessanti, quello che è stato anche un po' evocato dal primo ascoltatore, è il fatto che le persone hanno sviluppato all'avvento della raccolta differenziata, almeno per quello che posso vedere io su Roma, un rapporto particolare con i propri rifiuti, nel senso che li hanno improvvisamente scoperti, cioè quelle che erano delle iniezioni che loro normalmente si liberavano in maniera abbastanza irresponsabile nei cassonetti verdi che normalmente stavano su strada, adesso sono costretti a prenderne coscienza in qualche modo. Quindi sì, laddove ci sono i cassonetti, perché sì, non ovunque. Invece dove c'è la differenziata i cassonetti vengono tolti su strada, vengono lasciati solamente quelli per la carta e per il, certo, multimateriale, vetro, diciamo. E lei non può immaginare che tipo di rapporto sviluppano le persone con il conferimento del rifiuto. Ci sono persone che hanno proprio delle fobie incredibili, addirittura vengono a profumare il sacchetto di rifiuti per la paura che questo sviluppi un odore ma fastidioso per chi lo riceve. Vabbè, è un'attenzione, una delicatezza nei vostri confronti, non potete che apprezzare. No, ma lei non ha idea del fatto proprio della difficoltà che hanno a liberarsi del proprio rifiuto. Cioè il pensiero di doverlo consegnare a qualcuno che lo dovrà controllare è come togliersi dalle viscere qualcosa di proprio, lo so. Sì, li mette a nudo in una maniera incredibile. Tutto ciò comporta il fatto che quella che è poi l'idea della differenziata, ovvero la partecipazione del cittadino, molto spesso. Un freudiano direbbe sono in un'avanzata fase anale da cui non sono mai usciti, nel senso non voglio liberarsi dei propri rifiuti. Sì, beh, io non mi addentrerei in. No, è una lettura psicoanalitica, ma... sì, però. La vecchia che non butta via la spazzatura perché pensa che ancora c'è qualcosa di buono, probabilmente. Senta, resti un attimo in linea, devo dare la linea alle informazioni del traffico, però è interessante avere l'operatore ecologico perché poi in realtà è il vero gendarme della città pestilenziale, quindi vedo che l'attenzione con cui guarda anche noi produttori di spazzatura fa sì che lei rimanga con noi ancora un po'. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi Melog 2.0. Vabbè, qua è perfetto, siamo vicino all'autostrada, i camion arrivano fino a là, a quel punto là scaricano la terra e coprono tutta l'acqua. Perfetto. Franco, sono 85 metri. Figli pure la lunghezza. Aspetta, vieni qua. Franco! Vieni qua. Vuoi Dante? Buongiorno. Ciao. Va bene. Sto bene. Allora che dici? Va bene. La vogliamo riempire questa casa? Sì. Se ecco, la riempio io, non ti preoccupare, la riempio io. Digli allo zio che va bene. Va bene, va bene. Però Franco, mi raccomando, tutto pulito, terrazzamento, roba solida, perché non niente di bonifica. C'è il cacco un cazzo. Non ti preoccupare, tu l'hai svuotata e la riempio. Vedrai che te la riempio io. La nostra storia sembra scritta da un cazzo. Se la chiave del romanzo di Saviano Gomorra è questa sorta di questua di ricerca disperata da parte del protagonista di buchi liberi per infilarci i rifiuti, questo smaltimento coatto della spazzatura viene nascosta, infilata, naturalmente fatta senza criterio, poi riviene fuori, riemerge. E rivengono le versioni contemporanee della città pestilenziale. L'abbiamo eliminata dal nostro immaginario, ma il luogo dove deve crescere l'inceneritore è un concentrato città pestilenziale. I luoghi, i meandri nascosti dove vengono messi rifiuti speciali da parte dei camorristi sono città pestilenziali sotterranee. Quindi vedi, il luogo da te evocato riemerge continuamente comunque sotto altre forme. Diciamo, allora, nella mia analisi la città pestilenziale riemerge perché non si è stati capaci di dare una risposta industriale al problema dei rifiuti. Cioè, questo abbiamo capito. L'Italia ha avuto un boom industriale negli anni 60, 50, 60, 70, ha prodotto tantissime merci, ha migliorato il benessere delle persone, tutti vanno in macchina, fanno le vacanze, le televisioni, il telefono, eccetera, eccetera. Tutte queste merci poi hanno una fase di vita che li porta alla fine a diventare dei rifiuti. Quindi bisogna trattarli, e siccome sono stati prodotti in massa a livello industriale ci vogliono dei sistemi industriali. Il rifiuto dell'Italia in genere, di una cultura scarsamente industriale, quella che ho detto, la mancanza di una cultura di capitalismo industriale, cosa ha portato? Ha portato a vedere nel rifiuto quasi una cosa da proibire, cioè nessuno vuole l'impianto, anche se nessuno vuole la discarica, nessuno vuole l'inceneritore, nessuno vuole le stazioni di trasferimento, nessuno vuole nulla, perché, come dire, vengono viste quasi come qualcosa che necessariamente debba contaminare. Ti contamino con una leggenda metropolitana che attraversa il mio quotidiano. Di fronte a casa mia ci sono 6 file di cassonetti e di fronte al palazzo accanto nemmeno uno. Gira voce perché in quel palazzo abita non so se un vigile in pensione, un ex funzionario comunale che non vuole il cassonetto davanti a casa. Quindi tutti quelli di casa sua stanno davanti a casa mia. Pensa quanto è circoscritto questo terrore del luogo di smaltimento accanto al proprio luogo vitale. Il problema è, si ritorna però al punto principale, cioè la crisi non sono i rifiuti, è la fiducia. Se uno non ha la fiducia in un'istituzione che costruisce un inceneritore e dice che tecnicamente questo inceneritore è sicuro, o che costruisce una discarica e non puzza, non esce niente, non arrivano animali, il percolato viene preso e depurato, quindi voglio dire, è un problema di fiducia, non un problema di rifiuti. Le soluzioni tecniche ci sono, però la cosa è più grave. Negli anni 80 specialmente, l'aver demonizzato il rifiuto, in quel caso era quello industriale, cioè dove è stato impossibile o difficilissimo costruire impianti per neutralizzare, che cosa ha fatto? Ha creato una gli specie anni della diossina, questi anni qua ha creato una specie di proibizionismo, cioè di fatto l'impossibilità di costruire impianti per smaltire, secondo le leggi che erano state nel frattempo promulgate, ha creato una domanda enorme a fronte della quale non c'era un'offerta di smaltimento adeguata. In questo squilibrio, che è il proibizionismo, cioè come in America, certo, con l'alcol, tu c'hai una domanda di alcol enorme e non c'è. Allora, questi squilibri del mercato inevitabilmente sono, come io dico nel libro, un'invocazione al crimine organizzato, perché in America il proibizionismo dell'alcol portò a emergere la mafia italoamericana, certo, e Al Capone. Da noi il proibizionismo dei rifiuti, cioè dello smaltimento dei rifiuti, perché nessuno voleva fa nascere Gomorra. Risentiamo Francesco, così concludiamo con lei. Francesco, sì. Ha avuto altri elementi di riflessione rispetto al suo quotidiano, la sua osservazione di noi smaltitori non sempre corretti dei nostri rifiuti? Sì, il fatto della non correttezza secondo me deriva da questa responsabilizzazione forzata che c'è stata fatta in tempi piuttosto brevi, oltretutto con l'aggravio del rapporto tra l'azienda smaltitrice e il cittadino. Infatti io imputo una responsabilità piuttosto grande alla scarsezza comunicativa che per esempio c'è stata nel tentativo di dare delle delucidazioni o delle direttive. Questo è il suo problema professionale, giustamente l'ho accennato, ma noi siamo in conclusione della trasmissione. Ringraziamo Francesco, operatore ecologico, ringraziamo Lorenzo Pinna che ci ha dato una così interessante carrellata su quanto ci sia dietro da raccontare, al di là del discorso politico contingente attuale di scarico delle responsabilità rispetto alla discarica di una o tante città del nostro paese. A domani.